Allora, 87.9, stiamo registrando una puntata che andrà questo giovedì, che è 1º febbraio, una puntata dell'Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti dell'autoformazione che stiamo cercando di fare, stiamo facendo, insomma, tutti i giovedì. Io lascerei la parola a voi, intanto se ci volete introdurre meglio e ricordare ai radioascoltatori e le radioascoltatrici che cos'è l'Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti. Allora, l'Assemblea di Autodifesa Antisfratti è un'assemblea che si ritrova a Centocelle Aperte, un centro sociale dove partecipano varie realtà, varie persone di diverse realtà,